Radio 24 Reportage. Gerusalemme 2014, la città che prova a cambiar passo, di Gigi Donelli. Il sindaco di Gerusalemme, Nir Barkat, vuole imporre un cambio di passo alla città di Davide. Anche quest'anno ha investito mezzi ed energie per promuovere nel mondo la quarta edizione della Maratona di Gerusalemme, una grande festa dello sport che ha visto oltre 25.000 persone al via, oltre 2.500 delle quali straniere, divisi tra maratona, mezza maratona, 10, 5 km e persino una mini versione da 800 metri. L'idea del 54enne sindaco di Gerusalemme è quella che la grande corsa di primavera diventi una vetrina sul mondo per la città, un'occasione per richiamare nuove energie nella capitale delle religioni monoteiste, tra loro in costante competizione. Gerusalemme, riunificata solo con la guerra dei sei giorni sotto la bandiera israeliana, è una città profondamente influenzata dal conservatorismo religioso degli Haredim e che soffre sul piano economico e sociale la competizione con la più dinamica e laica Tel Aviv. L'incontro con l'ex maggiore dei paracadutisti della IDF, Forze Israeliane di Difesa, laureato in informatica e arrivato alla politica dopo una carriera imprenditoriale, è l'occasione per chiedere qual è la sua visione della città contesa, che alterna il respiro internazionale alla continua pressione di una situazione politica altamente instabile. Good morning everybody! Boker Tov Yerushalayim! Benvenuti a Gerusalemme, gridano gli speaker ufficiali a pochi minuti dal via della quarta maratona della città più sacra del mondo, centro delle religioni monoteiste, luogo simbolo dei contrasti mediorientali. Il sindaco di Gerusalemme, Nir Barkat, vuole imporre un cambio di passo alla città di Davide, passando anche attraverso questo evento cui partecipa sempre. Anche quest'anno ha investito mezzi ed energie per promuovere nel mondo la Maratona di Gerusalemme, una grande festa dello sport che nel primo giorno di primavera ha visto oltre 25.000 persone al via, 2.500 delle quali straniere. 5 gare ai blocchi, maratona, mezza maratona, 10 e 5 chilometri e persino una versione mini da 800 metri. L'idea del 54enne sindaco di Gerusalemme è quella che la grande corsa di primavera diventi una vetrina sul mondo per la città, un'occasione per richiamare nuove energie nella capitale delle religioni monoteiste, tra loro in costante competizione. Gerusalemme, riunificata con la guerra dei sei giorni sotto la bandiera israeliana, capitale mai riconosciuta nel mondo e reclamata per la parte orientale dall'autorità palestinese, è una città profondamente influenzata dal conservatorismo religioso dei movimenti ultraortodossi, una città che soffre sul piano economico e sociale la competizione con la più dinamica e laica Tel Aviv, abitata da mezzo milione di persone con un'età media di soli 33 anni. Major cities in the world that have marathons. L'incontro con l'ex maggiore dei paracadutisti della IDF, la Forza Israeliana di Difesa, laureato in informatica, arrivato alla politica dopo una carriera imprenditoriale, avviene sulla terrazza del Mamila, il nuovissimo albergo di riferimento per la clientela internazionale. Barkat vuole mettere in mostra la città ed è per noi l'occasione di chiedergli qual è la sua visione della città contesa che alterna il respiro internazionale alla continua pressione di una situazione politica altamente instabile. Barkat, sindaco noto per il suo dinamismo, crede molto nel ruolo che eventi come la maratona possono portare alla città. It helps our economy, it builds very strong momentum and for me it's part of what we're doing in culture and tourism. Tutte le più grandi città del mondo hanno una loro maratona, ci spiega. Per tutte la maratona è un grande strumento di promozione della città. Per noi e per Gerusalemme si tratta di una sfida che ti fa vincere, se la vinci, a vari livelli. Da una parte è un evento pensato per la cittadinanza, fa parte di quelle occasioni che migliorano la qualità della vita delle persone, che permettono di coinvolgere la popolazione giovanile. Gli abitanti che partecipano sono sempre di più e, dice il sindaco, sono molto contento che a partecipare, direi in massa, siano ora anche le scuole. La seconda cosa riguarda invece i turisti, gli stranieri che vengono da fuori e partecipano. Chi viene, partecipa, vede la città, torna a casa, diventa ambasciatore di Gerusalemme nel mondo. Noi ci crediamo, prosegue il sindaco, ci crediamo molto nella forza dello sport. Abbiamo costruito nuove infrastrutture, abbiamo ospitato gli europei under 21 di calcio, abbiamo accolto partite di basket di alto livello, coinvolgendo anche il Maccabi di Tel Aviv. Ora stiamo costruendo il nuovo palazzo dello sport da 13.000 posti. Insomma, Gerusalemme si sta muovendo e lo fa di gran carriera, prosegue il sindaco, che è chiaro nello spiegare che la sua ambizione è quella di vedere la città nella short list delle grandi maratoni mondiali, quella a cui il pubblico internazionale degli amatori pensa di dover partecipare almeno una volta nella vita. Condivido con il sindaco alcune preoccupazioni per la sicurezza e lui risponde. Non so quale sia la situazione in Italia, ma di certo so che ogni volta che vado negli Stati Uniti rischio molto di più di quanto non faccia qui a Gerusalemme. Non sono io a dirlo, dice Barkat, ma sono i dati statistici a dire che il rischio di incorrere in crimini violenti a Gerusalemme è solo un decimo rispetto a Los Angeles, New York o anche altre città di grande dimensione come Mosca, capitale della Russia. Io chiarisco che mi riferivo piuttosto ai rapporti israelo-palestinesi, alla minaccia del terrorismo, a questo genere di preoccupazioni. E lui risponde anche su questo punto dicendo: cammino per le strade della città tutti i giorni e la gente mi conferma che con la crescita dell'economia locale la città sta migliorando per tutti i cittadini, insiste, che siano arabi oppure ebrei, la crescita economica è un fattore di stabilità per tutti. La maggioranza della popolazione, prosegue, capisce benissimo che le città divise non possono funzionare. L'esempio più chiaro è quello che avete nel centro dell'Europa con Berlino, dice. Io invece, dice il sindaco, credo che le cose qui stiano migliorando e spero che chi corre la maratona possa godere appieno della città e magari anche capire meglio che qui sta accadendo qualcosa di positivo per la città e per tutti e che noi continueremo in questa direzione. And the city of Jerusalem today is better than ever and I'm sure that from year to year you will see improvements and improvements and improvements in the city of Jerusalem. And you're welcome to run the marathon, enjoy our city and probably better understand that the city indeed something good is happening in the city of Jerusalem. And we will continue doing that. La maratona di Gerusalemme ha un percorso tortuoso, faticoso e decisamente spettacolare, un percorso che porta a lambire alcuni dei luoghi più famosi dell'intero mondo. E quando i romani hanno distrutto il tempio e tutta la spianata, l'hanno lasciato soltanto questa, cioè il muro occidentale, e come rimane soltanto del palazzo o del tempio, che è stato considerato il tempio più grande nel mondo antico. E quindi questo muro è stato accessibile agli ebrei soltanto nel periodo ottomano. In tutti gli altri periodi, per essere vicino al muro del pianto oppure alla spianata del tempio, gli ebrei hanno avvicinato dall'altra parte del muro, cioè il muro orientale della spianata, quello che noi chiamiamo la porta d'oro. I bizantini ovviamente prima dei musulmani l'hanno lasciata totalmente vuota per dimostrare la profezia di Gesù che Gerusalemme sarà distrutta totalmente, allora l'hanno lasciata totalmente distrutta. I musulmani, ottavo secolo, tutte le moschee, e poi soltanto nel XVII secolo gli ottomani ci hanno dato il permesso di avvicinare il muro occidentale. E si chiama il muro del pianto per due motivi. Prima di tutto perché noi, come vi ho detto, la distruzione del Tempio è una cosa che da noi è un patrimonio nazionale, cioè è stato distrutto e noi lo ricordiamo come un evento, una catastrofe. Quando accade una catastrofe, lacrime sono sempre una cosa che connesso alla catastrofe. Ma l'altra cosa è, non lo so se avete visto come da noi la preghiera si avviene con questi movimenti e con è un certo tipo di preghiera che sembra di essere uno che piange. Luoghi sacri agli ebrei e ai musulmani che spesso entrano in collisione diretta appunto per il loro controllo, luoghi che naturalmente riguardano la cristianità. Nel convento dei Francescani abbiamo chiesto al custode dei luoghi santi, Pier Battista Pizzaballa, un parere su questa politica sportiva del sindaco di Gerusalemme. Sì, la città di Gerusalemme è preziosa a tutto il mondo proprio per questo luogo dove religioni e culture si mischiano l'uno con l'altro. Tutte le iniziative che aiutano a collegare anche le diverse parti della città sono benvenute, perché è noto che a Gerusalemme non sempre è facile mettere insieme le diverse componenti. Tornerei al tema del sindaco di Gerusalemme. Lui insiste molto sull'elemento dell'economia. Dice: l'economia, se cresce, cresce per tutti. Lei ha detto: Gerusalemme è il cuore per tutti. Forse in queste due voci si legge anche la complessità di gestire questi luoghi. Sì, economia e cuore devono andare d'accordo, sicuramente. Il cuore è l'ideale, diciamo così, lo spirito, il patrimonio, la storia, la tradizione. L'economia è poi il motore che deve fare funzionare tutto questo, e ce n'è per tutti, come si sarebbe dire. Quindi è possibile, se il cuore lo desidera, che l'economia possa aiutare tutti a stare meglio qui. In questa fase cosa vede all'orizzonte? C'è chi teme una nuova ricaduta in una fase di crisi profonda? In questo momento vedo uno stallo, non vedo grandi cambiamenti all'orizzonte, né in positivo né in negativo, che non credo sia una bella prospettiva. Diciamo una fase di stallo dove ci si guarda un po' a distanza, ci si odora l'un l'altro, ma senza avere chiare prospettive. Uno dei problemi che vediamo oggi è che non sappiamo come sarà il futuro, non abbiamo prospettive, si va avanti un po' così. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.